Uno, nessuno e 100.000 vada ad ascoltare l'Italia profonda. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qua, classico caso di presidio di ascoltatore a cui voglio un bene. Riapertura dei manicomi, priorità assoluta. Appunto, mi hai rubato quasi le parole di bocca, caro presidente. A cui voglio bene talmente tanto che lo stringo in un abbraccio costretto, costrittivo, proprio quasi come fosse una camicia bianca un po' stretta. Grande ascoltatore, ti voglio benissimo, voglio molto bene a te e a tutti coloro come manicomio. Te. Manicomio. Abbiamo capito. A chi alludevi, caro Filippo Reggi Regia? Al tuo compare Lorenzo Lespoli che sta lì a me? A Leonardo Manera, barricato in casa con il vestaglione? Vabbè, siamo qui con voi fino alle 11 anche oggi, cari ascoltatori. È finito ormai gennaio, sono i giorni della merla, basta, non ci sono più. Oggi ho letto questo titolo sul quotidiano nazionale: c'erano una volta i giorni della merla. Ieri c'era gente che prendeva il sole in costume a Milano, erano un tempo i giorni più freddi, i freddi dell'anno, e adesso ieri c'erano non lo so quanti gradi, c'era il sole e alè, va bene così, non ci sono più le mezze stagioni, basta, con i luoghi comuni abbiamo finito. Vi ricordo Off Topic, grande programma contro i luoghi comuni dei nostri amici Riccardo Poli, Alessandro Longone e Beppe Salmetti. Va bene, dai, siamo arrivati qui alle 9 e 10 minuti, 800 24 00 24. C'è anche Miriam Lucchetti in redazione, c'è anche Elisabetta Fusconi purtroppo in redazione. Siamo pronti a partire, vai. Enthusiasm about the future. Non ho detto il numero degli sms e whatsapp, ma ormai lo sapete: whatsapp audio 349 238 6666. L'abbiamo detto? Bene. Oh ragazzi, questa citofonata non sa più da finire. I guai che ha procurato questa citofonata a Salvini, non solo a Salvini, non finiscono più. Adesso c'è l'ultimo sviluppo che trovate sui giornali. Tra le cose che mi hanno colpito è questa vicenda di un carabiniere su cui l'arma sta indagando, perché tutto è nato, pare, da questa cittadina di Bologna che ha avvisato lo staff di Salvini dicendo: lì c'è uno spacciatore. Poi il resto lo sapete, è cronaca. Ma questa signora pare sia stata messa in contatto con lo staff di Salvini da un carabiniere, da un maresciallo dei carabinieri. E allora adesso l'arma dei carabinieri vuole verificare, facendo un'indagine interna, a che titolo questo maresciallo dei carabinieri si sia prodigato in una campagna elettorale, di fatto, a fare il gesto che poi tanti danni ha procurato. Qualcuno dice che è stato anche la causa della sconfitta a Bologna di Salvini. Vabbè, questo non lo potremo mai sapere, non lo potremo quantificare, però sta di fatto che adesso è un guaio mica male. Ma sulle elezioni voglio lanciarvi l'audio di Alba Parietti. Il tema lanciato da Alba Parietti a Stasera Italia da Barbara Palombelli. Si discuteva del post elezioni e Alba Parietti ha lanciato il suo sassolino nello stagno. Ma riguardo a chi dovrebbe votare, a chi dovremmo dare il diritto di voto? Non voglio offendere nessuno, no. Però finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo, perché una nazione... Adesso come metterei in discussione il suffragio universale. No, ma questo vale sia per la destra che per la sinistra. Insomma, mettiamo in discussione il suffragio universale? Votano gli istruiti? Votano quelli che passano un esame? O votano tutti? Ricordate che di recente aveva fatto scalpore, cioè avevamo fatto una trasmissione anche Henry De Luca, intellettuale, scrittore, che aveva detto non devono votare i vecchi. Ma lui ci metteva anche se stesso in questa categoria, dicendo ma com'è possibile che un vecchio possa decidere e votare sul futuro di una nazione. Anche Beppe Grillo, per la verità, si era cimentato in questo. Henry De Luca: il fatto che voto io, e a me mi dà fastidio che il mio voto valga come uno di questi nati adesso, ma il voto è suo, l'Europa è loro. Ma tu muori tra 5 minuti, ma tu sei stato qui. Come ti permetti di votare? Henry De Luca, che cosa, tu muori tra 5 minuti, statte quieto. Vabbè, come ti permetti di votare? Sottinteso, vecchio. Ma lui, Henry De Luca, ripeto, è importante questo da dire, metteva se stesso tra i vecchi. Comunque, per Alba Parietti devono votare gli istruiti, cioè non è che l'ha proprio detto così, però ha messo in dubbio il suffragio universale. Infatti Barbara Palombelli era un po' stranita. Che ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 00 24 o diteci la vostra. Tra l'altro oggi parleremo e ci collegheremo più tardi anche con Wuhan, questa città della Cina che è l'epicentro del virus, del coronavirus. Io vorrò capire qualcosa, perché i giornali dicono che è tutto pronto per il rimpatrio degli italiani che stanno là. Verranno messi in quarantena in una struttura militare. Ora, abbiamo sentito poco fa questo cittadino italiano che sta a Wuhan, ha detto io non ne so nulla, cioè capite, i giornali dicono è pronto il rimpatrio, il cittadino italiano dice che è là, lui che deve rimpatriare, io non ne so nulla, non sono stato avvisato da nessuno. Vabbè, tra l'altro su questa storia della mascherina, scusate ma ve lo dico seriamente, ma davvero c'è qualcuno che sta comprando le mascherine in Italia, in farmacia, sta facendo scorte? Ma io dico, ma Filippo Aureggi, guarda, sto cominciando a dar ragione ad Alba Parietti, ma che cacchio comprate le mascherine che il virus in Italia ancora non c'è? Ma cosa cavolo le comprate a fare? Cioè dovete andare a un ballo in maschera? Dovete andare a fare... Ma perché la popolazione reagisce in maniera così? Ma perché comprate le mascherine se il virus in Italia non c'è? Cosa vi impedite di trasmettere con quelle mascherine? Siete ridicoli, peraltro, se andate in giro, se non per altri motivi, se andate in giro con la mascherina per il coronavirus, siete ridicoli! Ridicoli, oltre che fate una cosa stupida. Vabbè, non avrete speso tanto, perché quanto costa una mascherina? 1 euro, 2? Quanto costa una mascherina? C'è gente che fa incetta di mascherine, le farmacie ne sono sprovviste. Ma siete... Ma io dico, vabbè, ma un attimo di razionalità. Vabbè, oh, se vi piace fare carnevale fuori stagione, andate in giro con le mascherine e fate voi. Allora, io però sono rimasto colpito a proposito di cose da fare dall'apertura del Fatto Quotidiano. Eccolo qua. E allora voglio salutare Maurizio Paniz, che torna con noi. Avvocato, buongiorno. Buona giornata a tutti, eccomi. Avvocato che difende tanti, centinaia di politici che hanno visto decurtato il proprio vitalizio per la famosa delibera, sapete, di Camera e Senato. Vabbè, la cronistoria è inutile, e sulle quali pende un ricorso davanti a un organo giuridico del Senato che dovrà decidere se quella delibera è valida oppure no. Oh, titolo del Fatto Quotidiano: il Senato ridà i vitalizi a 700 politici. Secondo Ilaria Proietti è già tutto deciso, ci sono anche i virgolettati, anticipando la relazione che in realtà sarà, credo, data il 20 febbraio, ma il Fatto Quotidiano dice la casta ha vinto. Caro Maurizio Paniz, lei avrebbe vinto secondo il Fatto Quotidiano. In anticipo. Ma speriamo di vincere in concreto, non secondo il Fatto Quotidiano, però so. Devo dire la verità, non è che sarei sorpreso, perché parliamoci chiaro, penso che dovrebbero essere felici 18 milioni di pensionati italiani. Qual è il pensionato italiano che sarebbe felice di vedersi decurtato dalla sera alla mattina addirittura dell'86%, come è successo per gli ex parlamentari, il proprio trattamento pensionistico? Nessuno. E questa delibera è palesemente illegittima perché viola un principio sacrosanto nello Stato di diritto, quello che non si possono toccare dei diritti acquisiti. Sì. Questa è la realtà. Quindi se così fosse, ma io non ho nessuna anticipazione, nessuna notizia in questo senso, se così fosse sarebbe soltanto un atto di giustizia conforme a quello che la Corte Costituzionale ha ripetutamente. No, ma quindi lei giustamente sta prudente, dice d'altronde, però spingendosi avanti dice se sarà così già lo sapevo, ma se si ricorda anch'io gli avevo detto. Non già lo sapevo, non nel senso sono che... Sono convinto perché uno Stato di diritto non può vedere stravolti dei principi fondamentali. Ma se si ricorda anch'io avevo detto varie volte, ma si ricorda qui anche in trasmissione, continuava a dire ma stia tranquillo, Avvocato Panis, tanto alla fine sarà così, avrete ragione, questa delibera sarà... E quindi se poi uno rivede la politica a ritroso con il replay, al VAR, ecco, dico questo termine che lei capirà sicuramente, al VAR, uno va a rivedere i festeggiamenti, gli spumanti del Movimento 5 Stelle, abbiamo tagliato tutto, e poi dici dopo due anni, un anno e mezzo, finirà in niente, finirà in nulla. Questa è la finirà non proprio in niente, perché c'è tanta gente che ha sofferto, c'è tanta gente che sta soffrendo, c'è tanta gente che è stata privata di diritti fondamentali, c'è gente che ha dovuto mandare a casa la badante che aveva, c'è gente che ha dovuto ricorrere alla Caritas per avere delle disponibilità, perché parliamoci chiaro, se dalla sera alla mattina si toglie l'80% del trattamento di vitalizio, magari prima ancorato a 2.000-2.500 euro e lo si porta a 900 euro, si può pensare che una persona dalla sera alla mattina trovi delle soluzioni adeguate? Sì. Evidentemente non le trovi. Allora, ovviamente ha colpito gente che ha 90 anni, di più. Ovviamente, avvocato, cioè, molti si arrabbiano a dire non faccio i paragoni con i pensionati normali, non è il paragone sulla cifra, la cifra in alcuni casi sono effettivamente non paragonabili, è il principio su cui l'avvocato Panizza ha sempre detto, se si parte con i vitalizi degli ex parlamentari e dopo si può allargare la questione e dire allora facciamo anche per tutti i pensionati normali, gli altri, il regime retributivo. È chiaro che in un paese la categoria più debole è quella dei pensionati. Hanno provato in altri paesi a toccare i loro diritti. Vedete quello che è successo in Cile, vedete quello che è successo in Francia. Toccare i diritti dei pensionati è facile perché non hanno armi di difesa, ma è veramente un atto indecente colpire le persone più anziane e più deboli, togliendoli dalla sera alla mattina quello che sono conquistati in decenni di attività, di lavoro e di impegno. In questo caso però, ecco, allora dico io, le cifre sono un po' diverse, insomma, come dire, non sono dei poveri pensionati in alcuni casi. In alcuni casi sì, in alcuni casi no, certamente, però è la funzione che va anche rispettata, perché si tratta di persone che hanno dedicato una vita al benessere, in molti casi proprio veramente al benessere di milioni di cittadini italiani. In ogni caso, avvocato Panis, attendiamo il 20 febbraio, è il 20 febbraio la data, quella ufficiale della pronuncia? Il Senato ha comunicato che la decisione sarà nota il 20 febbraio. Sarà nota il 20 febbraio, per il Fatto Quotidiano è già nota, però Beato lui, ma secondo me guardi che su queste cose il Fatto Quotidiano non ci sbaglia tantissimo, e quindi intanto speriamo, lei dice speriamo. La ringrazio, ci aggiorniamo il 20 febbraio a questo punto, anche se secondo il Fatto Quotidiano la notizia, cari ascoltatori, lo so, già vi siete arrabbiati, secondo alcuni vi ho già rovinato la giornata con questa notizia, ma che dobbiamo fare? Questo è. Però alle 9:21 minuti io sono rimasto molto colpito dalla vicenda di ieri che abbiamo raccontato un po' rapidamente, chiamando al volo il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, che è tornato con noi. Sindaco, buongiorno, provincia buongiorno di Lecco. A Dervio a tutti. È in vigore da qualche giorno un'ordinanza che punisce con una multa, quindi una multa amministrativa, tutti coloro che utilizzare sostanze stupefacenti, le droghe. Il sindaco ci ha spiegato che c'è già stato il caso di una multa. A me ha colpito molto perché ci ha raccontato addirittura che è stata una mamma che ha accompagnato il figlio dallo spacciatore a comprare eroina e cocaina. Evidentemente, scavando in quella storia familiare, ci deve essere qualche dramma sotto. Certo. Però, ecco, questo è il punto di partenza. Saluto anche Luana Torza che torna con noi, è una mamma che ha un passato di tossicodipendenza, oggi è mamma volontaria al boschetto di Rogoredo, al Parco delle Groane, zone di Milano dove purtroppo lo spaccio e i tossicodipendenti ci sono. Luana Torza, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno. Chiedo subito a lei, perché insomma il sindaco ieri ci ha spiegato, poi ci spiega, che ne pensa dell'idea? Perché lei ha sempre detto il tossicodipendente va anche costretto in qualche modo a prendersi cura a un certo punto di se stesso. Che ne pensa però dell'idea di una multa amministrativa in caso di consumo? Allora, sono d'accordo con la presa di posizione di questo sindaco, perché credo veramente che oggi in Italia, dove tutto sembra veramente concesso, tutto sembra legalizzato, mm-hmm. tutto sembra possibile, diciamo, finalmente c'è qualcuno che dice no. Okay. Quindi veramente sono d'accordo con quello che fa. Non sono d'accordo sul fatto della multa, perché credo che si possa intervenire in modo diverso, nel senso, se si punta a migliorare la qualità della vita di chi vive in paesi, in città, in spazi mm-hmm. dove purtroppo ci sono queste problematiche di spaccio, di uso di droga e quant'altro, allora si deve pensare che per migliorare la propria vita e la vita del tossicodipendente bisogna risolvere il problema. Sì. Ecco, su questo ieri il sindaco, ma adesso ce lo rispiega, dice: io non voglio intervenire, come dire, solo, usa questa metafora, col bastone della multa, nel senso che facciamo altre iniziative di sensibilizzazione, ma voleva, sindaco, lei dare una risposta ai cittadini che si lamentano, una risposta a coloro che dicono basta, non se ne può più di questo spaccio, no? Che è questa la ratio di questa ordinanza, sindaco? Allora, sì, noi dobbiamo ricordare che le azioni amministrative che facciamo devono ispirarsi comunque sempre alla Costituzione. L'articolo 32 della nostra Costituzione prevede che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo nell'interesse della collettività. Nella salute rientra anche la tranquillità, la serenità e il quieto vivere delle persone. In questa zona del paese, anche in altre zone, ma questa in particolare, c'è un vero malessere da parte dei cittadini, perché qualche cascinale occupato, le signore che dicono non esco più a gettare la pattumiera la sera perché ho paura, e chiedono legittimamente una risposta. Sì. Io capisco perfettamente quello che dice la signora Luana, io conosco un po' la sua storia e mi fa piacere che lei abbia capito lo spirito di questa iniziativa. Mi rendo conto che sarebbe più bello riuscire a non usare un sistema forse coercitivo come la sanzione. Mm-hmm. Però io devo, prima di tutto da sindaco, devo lavorare nell'interesse dei cittadini. Cittadini... Sì. Che hanno timore di uscire di casa non è una cosa accettabile. Però questa per è una, cioè, perché non fa una battaglia per chiedere il presidio di forze dell'ordine? Perché tutta la questione delle occupazioni o dello spaccio è questione di forze dell'ordine, no? È questa la questione che le dicevamo anche ieri. Non ho ben capito come la sanzione possa essere una risposta, perché poi la risposta, i cittadini quindi dicono faccia qualcosa per risolvere il problema, no? Per togliere certo. queste persone. Mi domando se la sanzione amministrativa sia questa risposta corretta. Devo dire che se i problemi si affrontano e non si fa lo stile struzzo, le questioni si possono affrontare nel tempo. L'amministrazione precedente ha sempre detto che non esisteva un problema e oggi siamo a questa situazione. Le forze dell'ordine, la prefettura, investite della questione, sì. si sono attivate in maniera efficace, stanno agendo, anche ieri hanno fatto una grossa operazione e ringrazio il prefetto Formiglio e tutte le forze dell'ordine per questa attività. Serve però il presidio anche costante. Noi la polizia locale l'abbiamo sul territorio, sì. sono agenti molto determinati, abbiamo appena fatto un consorzio dai vari comandi per avere più uomini in campo. Diciamo che questa quindi... è una risposta in più. Aspetti un attimo, sindaco, sì. Perché devo, so che Luana tra qualche minuto ci deve lasciare. Luana Torza, però le chiedo, fosse capitato ai suoi tempi di ricevere una multa da 1.000 euro, forse c'erano ancora le lire, non lo so. Cioè, lei in quella situazione sarebbe stato in grado di pagarla? Cosa ne faceva? Allora... Ripeto, ai miei tempi sì, sicuramente c'era la lira. C'era la lira. Però dico, io dico, ci sono i mezzi alternativi. La Costituzione ce li dà. Il tossicodipendente è una persona considerata malata. La legge del 1990, su cui poi nel 2006 non è stato ritoccato l'articolo, dice e permette... Sì, la multa pecuniaria, quindi l'azione pecuniaria nei confronti del, ma anche l'azione di assistenza alla persona. Quindi noi abbiamo un problema di tossicodipendenza, abbiamo dei ragazzi che fanno uso di droghe, che comunque inquinano la tranquillità delle persone normali. Io sono la prima a dire dobbiamo toglierli per loro e per noi. Ieri, aiutando un ragazzo tossicodipendente, sono stata derubata di una cifra importante, ok? Quindi io so come vive il tossicodipendente. Lui stesso, poco prima che succedesse questo, mi ha detto: l'unico motivo per cui io potrei restare dentro una comunità è che mi chiudete dentro una stanza e buttate la chiave. Quindi loro stessi sanno che hanno bisogno di un'azione di forza per essere aiutati. La legge ci permette di farlo perché li dichiara persone malate e ci dà l'autorizzazione in certi casi di poterli aiutare con un ricovero presso sì. delle comunità. Cioè posso tradurre se dico che secondo lei è un po' questa sanzione amministrativa un tra virgolette mettersi a posto la coscienza e dire qualcosa ho fatto. È inutile dare una multa a un tossicodipendente, non la può cambiare. Va ad accumulare, si mette in coda tutte le altre, che forse lui sconterà, sperando, un domani, quando si metterà a posto, inizieranno ad arrivare. Quando allora la sua vita probabilmente sarà tranquilla e pregando e sperando in Dio lui si mette a posto, tutte queste cose torneranno in un tempo dove lui starà bene e quindi si troverà a scontare delle pene che per carità nessuno gli toglie perché sono cose che ti restano, che è giusto che tu affronti. Però io dico, a cosa serve? A cosa serve concretamente? Azioni azioni di recupero. No, ma è chiaro, ti tolgo dalla strada dove dai fastidio, dove crei danno a te stesso e agli altri, ti tolgo, ho la possibilità di farlo. Vai a curarti, via dalla strada fuori, via dalla tossicodipendenza. Allora, non la multa, cosa chiaro. Serve? Allora, facciamo così. Luana Torza, siccome deve lavorare e quindi la ringraziamo, la liberiamo, sto ancora qualche minuto col sindaco Cassinelli, la ringrazio molto ancora Luana Torza. Sindaco, qui c'è anche un po' il paradosso è questo, che lei, magari, come ha detto, non fa lo struzzo, e un qualche cosa per affrontare, magari mettendoci la faccia, per affrontare questo problema, qualche iniziativa l'ha presa. Il paradosso è, non vorrei poi si criticasse tanto il sindaco, che comunque il problema non ha fatto finta di non vederlo, come forse il 90% degli amministratori locali, che sì, lo vedono, però dicono ma io che cavolo ci devo fare, è questione di carabinieri, è questione di polizia, eccetera. No, allora sono perfettamente d'accordo con lei su questa posizione. Cioè, il paradosso è che ha fatto qualcosa e adesso è qui anche a essere un po' criticato perché nel confronto democratico ci sta perfettamente. Io quello che diceva la signora Luana lo capisco perfettamente e mi permetto di fare un paio di esempi. Uno, capisco il ragionamento che la signora Luana fa sul tossico, diciamo il classico tossico che abbiamo in mente, che quei 300 euro di multa non li pagherà, gli arriveranno addosso magari fra tot anni quando magari si è sistemato. Però noi dobbiamo pensare anche che qui c'è la fila, c'è gente col macchinone che può pagare i 300 euro, non sono il tossico classico eroinomane che abbiamo in mente noi di una certa generazione degli anni Ottanta, ma è gente che ha l'apparenza normale, sì. Ma poi sì, ma sai, quelli appunto invece che 300 ne tireranno fuori 400 con la multa amministrativa, cioè se hanno davvero il macchinone o se lo possono permettere non saranno quei 100 euro che lo scoraggiano. No, però di sicuro sapere che c'è un controllo, sapere che ti becchi una multa, resta traccia di quello che hai fatto, che viene segnalata alla prefettura, sì. Di sicuro non gli fa bene. Quello, sì. E riferendomi ancora a quello che diceva la signora Luana, io tipo 3 settimane fa ero con i carabinieri, che ringrazio veramente perché quando li chiami ci sono sempre, a fare dei controlli in stazione, ho trovato uno dei tossici storici del paese, mi sono fermato a parlare, gli ho detto ma vieni in comune, c'è l'assistenza sociale, parliamone, cerchiamo di aiutarti, cioè guarda come ti stai riducendo, Luana ci ha fatto capire che ci vuole un atto un po' più di costrizione, ecco, da parte dei familiari, magari da parte di però un sindaco non può fare un TSO, e quel ragazzo mi ha detto io so che mi sto rovinando, ma a me va bene così, io non voglio voglio smettere, per cui cioè io ripeto, non sono un sociologo, se i cittadini, mettiamolo così, bravi, nel senso che pagano le tasse, vivono qui tranquillamente, non si sentono tranquilli, è dovere di un amministratore tutto il possibile e anche l'impossibile per dargli le risposte. Poi magari non funziona, ma almeno ci provi. Se invece dici è così e basta, non risolvi niente. Allora, ma è chiaro, sindaco, lei, insomma, infatti su questo ha creato un dibattito, io la ringrazio, insomma sono 2 giorni che la chiamo, le porto anche, arriva così un messaggio, saluto Stefano, ex compagno d'oratorio, ma non so, non si firma e sono d'accordo con lui, ascolta, se la prenda così e come complimenti da un ex compagno d'oratorio misterioso, va bene. Sindaco, io la ringrazio, Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, siamo in provincia di Lecco, che ha deciso di fare questa ordinanza per multare amministrativamente con da 300 a 1000 euro i tossicodipendenti, cioè ti becco a consumare, oltre alla questione solita della legge, cioè la segnalazione alla prefettura eccetera, queste sono cose parallele, questa è una cosa in più, cioè ti becchi anche una sanzione amministrativa fino a 1000 euro. Che ne pensate? Nella seconda parte, tra poco c'è Manera, Vestagliona Manera, e poi parleremo anche di Sanremo, il boicottaggio di Sanremo, parleremo del coronavirus, se volete intervenire su quello che ha detto Alba Parietti, il voto, insomma, come sapete qua è una bella miscellanea di idee. Uno, nessuno, 100 Milan. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Alba Parietti, proporrei prima del voto un test di 3 domande, se non si supera il test il voto vale la metà. La sparata di Alba Parietti mi ricorda il detto comunista, il popolo non ci vota più, bisogna cambiare il popolo. Quello che ha detto la Parietti è sacrosanto e giustissimo dal suo punto di vista, dato che lei è una ricercatrice plurilaureata che ha fatto studi internazionali su qualsiasi argomento, perché è una professorona lei, no? Dai, però... Se uno ascolta Radio 24 è informato e quindi ha il diritto di votare, secondo me. Giusto. Certo, poi c'è Cruciani con la zanzara. No, vabbè. No, è vero, potrebbe essere così. Agli ascoltatori di Radio 24 il voto viene concesso e vale 1.3, così. A coloro che lavorano a Radio 24 vale 1, per coloro che vale 1.2. Per coloro che lavorano a Radio 24 ma non si presentano sul posto di lavoro, il voto vale 0.8. Cioè votano. Un attimo, che sono in bagno. Cosa dicevi? Eccolo qua. Vestagliona Manera, neanche più Lentopede, ormai è Vestaglione Manera. Sembra Andrade Manera. Te lo ricordi Andrade, che era accusato di giocare a calcio alla Moviola? Come stai, Leo? Ti sento meglio. Mi sto rimettendo poco alla volta, ecco, ancora un po' di tosse, però sono ancora, per la verità, guarda, ho anche il certificato medico, sì, Sì. Volendo potrei esibirlo e proprio non presentarmi per una settimana, però invece lunedì magari verrò, adesso va devo bene. Vedere un po'. Perché... Vediamo un po'. Cioè la questione della metropolitana perché... Oh, scusa, sei proprio in bagno? Sì, sì, sto uscendo adesso dal bagno. No, ragazzi, è una roba vergognosa, è una roba scandalosa. Volete fare una rivolta contro Leonardo Manera? Ecco, almeno Paolo Mieli, cioè, voglio dire, io non ho mai sentito durante la rassegna stampa, no? Poi fai tu. Vabbè, ma si sa che tutti ne usufruiscono di quella stanza. No, io volevo chiedere a quelli che dicono che col coronavirus non bisogna evitare i luoghi affollati, ma se io devo venire in metropolitana, come faccio? Cioè, potrei rivolgermi... Ma non c'è il virus in Italia per il momento, quindi non è che... Sì, ma una delle precauzioni che dicono comunque adesso è evitate i luoghi affollati, sì. Ci fai sentire il tin del forno a microonde, non so, scaldati una tisana a questo punto, cioè, dopo essere andato in bagno, no, vedi tu. Adesso mi farò un po' di caffè. Non sai, sento il rumore, sì. Questo è il rumore della fiamma. Senti, non è neanche capace di accendere, sai, sempre mio figlio, non sei capace di accendere, devi girare ogni tanto. Lo so. Vabbè. E che dobbiamo fare? Quindi devo capire se venire in metropolitana sarebbe un grave ipotetico pregiudizio per la mia salute e quindi sì. Potrei chiedere di rimanere sempre a far da casa. Secondo me io vincerei la causa, come hanno vinto per i vitalizi, anch'io. Vabbè. È un pregiudizio per la mia salute venire in metropolitana. Sentite invece la signora Parietti, Alba Parietti, che dice da Barbara Palombelli, insomma, non è che ha messo in discussione il suffragio universale, però ha detto che ci vorrebbe più istruzione per votare. Allora, se un popolo non è istruito, si potrebbe anche pensare, no? di togliere il voto. Il problema di fondo è che io credo prima chi era, insomma, diciamo pure ignorante completamente, viveva la cosa con un po' di vergogna. Adesso invece l'ignoranza è vissuta quasi come un valore aggiunto, no? Perché si è visti come essere più genuini, un po' come faccio io. Va bene, ecco, intanto... Io vivo con arroganza mia ignoranza. L'arroganza dell'ignoranza. Gabriella ci dice: da quando ascolto Radio 24 mi sono notevolmente acculturata, mi chiamano Treccani in casa. Bene, e quindi Gabriella può votare. Per esempio, Gabriella può votare e il suo voto conta uno pieno. Allora, sentiamo un po' Tessa dalla provincia di Lucca. Tessa. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, Manera, spero si sia lavato le mani dopo essere stato in bagno. Ma tanto non è barricato, chi se ne frega, non incrocia nessuno, non so. Il mio medico di base mi ha insegnato come bisogna lavarsi le mani bene per evitare i contagi. Mi ha detto di insistere soprattutto sui polpastrelli, la zona verso il polso, che mi ha detto che è la zona più trascurata, ma è quella potenzialmente più dannosa. Do questa informazione utile a tutti gli ascoltatori. Il polso, vabbè. È la zona del polso, la parte alta della mano, ecco. Così non c'è più coronavirus. Bene, abbiamo risolto. Che ci vuol dire, Tessa? Che io proporrei uno strumento che è ancora più restrittivo rispetto alla Parietti e al Ridi Luca, nel senso. Allora, ho fatto una rapida ricerca su internet. Allora, secondo l'OCSE abbiamo un 47% di persone che sono analfabeti funzionali in Italia. Uno su sei è tra i giovani, d'accordo? Sì, queste sono le statistiche dell'anno scorso. Secondo invece il Sole 24 Ore, proprio l'anno scorso avete pubblicato i dati dell'Istat, il 35% della popolazione italiana sopra i 15 anni è sopra i 65 anni. Quindi praticamente allora, via quelli altri, allora, chi è che vota? Esatto, io e lei? No, lei mi sembra molto informata. No, mi sono documentata perché è una cosa su cui rifletto da tempo, perché poi lavoro anch'io nel mondo dell'informazione. Allora, il discorso è, per i giovani e per chi si affaccia al voto, intanto devono passare lo stesso test che devono passare chi vuole prendere la cittadinanza italiana. Quindi devono passare un livello di B2 di competenza linguistica e devono passare l'esatto esame che si deve sostenere per prendere la cittadinanza sulle nostre istituzioni. Questo per iniziare. L'over 65 hanno dato il loro contributo, prendono la pensione, cioè una volta che una persona va in pensione perde il diritto di voto. E questo... ma lei è convinta di queste tesi? Io sono convintissima. Oh, ma stupendo, no, no, no. Cioè perché... Aspetta, lo motivo, però vorrei motivarlo. Sì, no, vabbè, ma un po' perché si capisce. Demagogia, però una persona che ha lavorato, che ha dato il suo contributo giustamente alla costruzione del paese e che poi va in pensione, avrà sempre, diciamo, come modello di voto o comunque come filosofia la conservazione di ciò, lo status quo, o quantomeno conservare quello che giustamente ha costruito. Ho capito. E perché, e non perché mai rischi. Ma ho capito, però, Tessa, perché la conservazione di quello che ha conseguito è politicamente, lei sta dicendo che è una posizione sbagliata, come dire, da tanto sbagliata, no, da negare la possibilità di del voto. Magari dicendo che sia sbagliata. Magari politicamente la conservazione dello statu quo è il meglio del meglio del meglio per chi la pensa così. È quello che vuole, però io non sto dicendo che è sbagliato scegliere lo status quo, sto dicendo che col quadro demografico italiano, d'accordo, in cui abbiamo, come detto, il 35% della popolazione sopra i 65, in cui abbiamo, e non mi ricordo i dati, il numero dei giovani che va a lavorare all'estero, quindi diciamo la base demografica della popolazione che può costruire questa Italia, va bene, si reca in parte all'estero. Bene. E in cui si fanno meno figli. A parte che vota lo stesso anche dall'estero. Adesso. Ma guardi, io ho due fratelli che abitano all'estero, no, ma... e le schede elettorali, vabbè, vabbè, ma la sua posizione è chiara, no? Perché devo andare al traffico. È vero, lei non ha detto che è sbagliata la conservazione dello statu quo, però se dice è convinta che dopo i 65 anni, siccome uno non è più propenso tanto a rischiare, dovrebbe essergli negato il diritto di voto, c'è un giudizio negativo in chi oltre i 65 anni pensa alla conservazione. Che ne pensi, Leonardo? Hai visto? A trovare un ospite non l'avremmo trovato un ospite così a sostenere questo. Con delle teorie così bizzarre e discutibili. No, bizzarre e discutibili, tu dici. Però era per me vale il vecchio principio che chi paga le tasse ha diritto di essere comunque rappresentato. Magari toglierei il voto a chi non paga le tasse, ecco. Ecco, oh, ecco. Ma... dice il principio liberale, come tu sai, no taxation without representation. E quindi togliamo il diritto di voto a chi non paga, ai grandi evasori. Grandi, piccoli no. Insomma, cioè, se hai una cartella esattoriale che... le tue solite multe che poi... puoi votare solo per la Camera, non per il Senato, se sei un piccolo evasore, o viceversa. Sì. Solo per le amministrative. Perché? Vabbè. Allora, i grandi evasori non votano mai, a scendere, no? Piccolo evasore non vota per le amministrative e così via. Vabbè, ma il caffè come questa va? Questa è una bella teoria, guarda, Esce, bella. Esce il caffè? Sta venendo su? No, perché io non mi faccio il caffè con la moka, lo faccio solubile. Hai acceso il gas così? Per farlo prima per voi, un po' per fare un po' di cinema. Ah, va bene, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, il tossicodipendente è una persona che non ha nulla che un vigile o un qualunque funzionario di pubblica autorità gli elevi una sanzione, non la pagherà mai, è carta straccia. Io non credo che Manera sia malato, o è una gag vostra o è un lavativo che ogni 2x3 va a fare dei lavori da un'altra parte in barba al contratto che ha fatto con voi. Io ho questa idea. Io dico solo che una gag non lo è, faccia lei poi, caro ascoltatore. Leo. Questi commenti sono negativi per la mia immagine. Allora, pregiudizievoli. Ne è arrivato uno, ti faccio sentire in diretta questo. Questo invece a favore. Senti. Bravo Manera, togliamo il voto a chi non paga le tasse. Oh, ogni tanto una giusta la dici, eh? Ogni tanto. Questo è uno scontro. Mi piace questa mia teoria. Penso che potrebbe avere successo anche a livello nazionale. La proporrò a qualche politico di livello. Va bene. Adesso cosa hai da dirci dopo il caffè, il bagno, lo sciacquone? Adesso se lì Filippo Regi in regia mi fa partire una delle nostre 1000 basi. Oggi hai scelto questa, adesso te. Oh, che bella, non me l'aspettavo. Allora... l'epidemia del coronavirus con tutte le problematiche che comporta, però almeno ha anche un aspetto positivo, che è il comportamento della Cina, molto più collaborativa rispetto ai tempi della SARS, e che in poco tempo ha saputo mettere in quarantena la Cina, quarantena completa, la città di Wuhan, quella da cui a quanto pare sarebbero partiti i primi contagi. Dalla città di Wuhan, almeno a sentire i racconti dei media, non entra uno spillo senza controllo, tutto è sotto controllo, a parte il virus. In questi cinesi sono stati bravi, complimenti a loro. E intanto si vedono le immagini di medici bardati da capo a piedi con tute isolanti, come nel film Virus Letale di qualche anno fa. Io invece ho provato a immaginare cosa succederebbe se una città italiana dovesse essere messa in quarantena. Se da una qualsiasi città italiana, per una causa qualsiasi, chissà, forse anche proprio per il coronavirus, non si potesse più entrare né uscire se non con tutti i controlli del caso e comunque con una serie di restrizioni. Prima di tutto bisognerebbe prendere una decisione rapida in Parlamento per capire come e quanto è diffuso il problema. Matteo Salvini andrebbe a citofonare nei vari quartieri per chiedere scusi, lei ha il coronavirus? Messa in atto la quarantena, un attimo dopo ognuno di noi comincerebbe a pensare a come fare in caso di necessità per uscire dalla città senza sottoporsi ai controlli. Comincerebbero le prime telefonate, le prime proposte, dice mio cugino ha un sistema sicuro per non farsi notare. Oppure guarda, c'è un amico che tutte le mattine va e viene senza problemi, ha delle conoscenze. Spunterebbero i primi lasciapassare finti rilasciati da qualche autorità sanitaria, come ci sono i certificati finti per i falsi invalidi. E poi cosa succederebbe se il virus dovesse veramente arrivare in modo significativo qui da noi? In qualche bancarella nei mercati rionali comincerebbero a spuntare dei kit farlocchi per il test dei virus. Ognuno avrebbe sicuramente qualche consiglio risolutivo fai da te per evitare il contagio. Però almeno nelle riunioni condominiali si litigherebbe di meno, perché gridando c'è sempre qualche particella di saliva che può partire e allora si eviterebbe. Sarebbero riunioni condominiali tranquillissime. Nelle chiese si organizzerebbero veglie di preghiera, solo che invece scambiarsi il segno di pace di persona lo si mimerebbe da lontano. La pace sia con te, però tenendo un metro. L'unico aspetto positivo potrebbe essere per i nostri figli, perché il periodo di carnevale che sta arrivando verrebbe prorogato in modo che almeno i bambini con le mascherine possano essere più protetti. In caso di una vera emergenza sanitaria, che per il momento non c'è, cambierebbero completamente e in poco tempo anche tutte le nostre abitudini. Intanto però una delle precauzioni consigliate anche adesso è evitare i luoghi affollati. Quindi, per esempio, lo dico a tutti gli ascoltatori di Radio 24, evitare le dark room dei club privé che molti frequentano, e lì sia in tanti e non si sa chi. Forse il coronavirus servirà almeno a rinsaldare l'amore domestico e l'intimità familiare. Eccolo là, eccolo là. Va bene, c'è Walter dalla provincia di Piacenza, Walter. Eccoci, Walter. Buongiorno. Buongiorno. La telefonata aveva il senso di collegarsi alla butade della signora Parietti. La butade per lei, bene. Bene. Butade, sì, che comunque lascia il peso che ha, nel senso che a sinistra o a destra votano i coglioni, gli intelligenti da una parte o dall'altra, quindi non è che a un certo punto si pareggerebbe tutto lo stesso. Dice, l'ignoranza si equidistribuisce, quindi non è un problema. Semmai se si volesse fare qualcosa di veramente utile, pratico, intelligente anche nella direzione di quelli che parlano appunto che il voto deve essere lasciato a quelli che hanno cultura, si potrebbe fare un sistemino tipo quello del se vuoi essere milionario, dove il uno quiz. Entra in cabina, infila in una macchinetta la sua tessera sanitaria. Solo se risponde i quiz. Vorrei però capire che tipo di quiz. Lei che domanda farebbe? Una molto semplice, niente. Per esempio, Walter, chi è il presidente della Repubblica? Non so. Anche questo è una domandina. Il presidente della Repubblica, non so. Quando è finita la seconda guerra mondiale, stupendo, cose di questo genere, cose così basiche. Cioè, devo dire, Walter, grazie. Devo dire che Leo, tu che domande metteresti? No, perché io c'è un sospetto. Ecco, mi sorge un sospetto in quello che ha detto Alba Parietti. Non vorrei che il sottotesto fosse gli ignoranti votano a destra e gli intelligenti votano a sinistra. Non l'ha detto, ovviamente. non l'ha detto assolutamente, ma non vorrei che il sottotesto fosse questo. Qual è il problema se si fanno le domande? Che succede come in certi quiz, no? Io vedo ogni tanto, anche se la sera l'eredità, che ci sono due concorrenti e a uno capita una domanda facile, e a un altro una complicatissima. Esatto. Invece, poi nascerebbero i bigini sulle domande, gente che si passa i biglietti per votare. Vabbè, dai, andiamo al giornale radio. Molto interessante, ripartiremo da qui, ma ripartiremo anche da Wuhan. Tranquillo, Leonardo, sarà solo un collegamento telefonico, non avremo ospiti a casa tua da Wuhan. Ma solo telefonici lontani per parlare del coronavirus. Sai che anche tu hai la voce un po' costipata? Sì, ho il raffreddore da tempo. Me l'hai attaccato tu, solo che io sono qua a lavorare. Dai, giornale radio. I consigli che vorreste sentirvi dare dagli amici, quelli veri. Sicuramente consiglierei un dottorato in Germania, soprattutto nei settori tecnici. Le dritte che non avete mai osato chiedere. Oggi un curriculum per l'estero deve essere soprattutto focalizzato sulla massima concisione e focalizzazione sulle proprie esperienze professionali. Le offerte di lavoro che non potrete rifiutare. Eurisvezia ci ha contattato per una richiesta di infermieri per l'ospedale universitario a Karolinska di Stoccolma. E se cercate casa? Standard abitativi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. La cosa bella, spesso fai amicizia con i tuoi coinquilini, perché non sarai mai solo, ecco. A Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, vi guidiamo nel vostro futuro all'estero. Che ci andate per studiare, lavorare o fare impresa, noi saremo al vostro fianco. Sono Sergio Nava, vi aspetto il sabato alle 13.30 su Radio 24 e anche in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Uno, nessuno, 100 Milan. Chi decide quale sarebbe la cultura per poter votare? Io per esempio vieterei il voto a chi ha una cultura classista come la Parietti. Cioè, Tessa, fammi capire, per votare ci vuole la laurea, per fare il ministro della terza media. Buongiorno ragazzi, secondo me la permanenza prolungata in maniera sulla tazza del water è una specie di karma, cioè una specie di punizione divina per tutte le volte che ha dato da mangiare, da bere l'acqua sporca, l'acqua tiepida con i biscotti al povero, giusto, al povero figliolo. Giusto. E comunque secondo me una cosa positiva c'è. Da quando lui sta a casa io un posto sul metro lo trovo sempre. Sarà il karma anche lì. Un saluto, anche a Manera, vedi di riprenderti. E non essere Tirchio. Sarà mica l'ascoltatore, caro. No, Tirchio no, ecco, se c'è una cosa che Manera, anzi paga i biglietti della metropolitana anche quando non deve. Certo, mi deve ancora. Comunque, 100, volevo euro. Mi devi ancora quei famosi 120 euro. Vabbè, adesso lasciamo stare. No, volevo informare che è una malattia delle vie respiratorie. Il virus intestinale ce l'ho avuto all'inizio di gennaio. Sì, sì, adesso sì, invece, sì. Questa è un'altra. Adesso è un'altra. Me ne aspetto un altro febbraio. No. A questo proposito, allora, detto che il tema del voto, chi deve votare, Alba Parietti, vabbè, ha scatenato un putiferio. Io ripeto, ho questa impressione che il sottotesto fosse: a sinistra votano gli informati, a destra no, perché se no perché tirar fuori la questione così? Vabbè, comunque, parliamo invece del coronavirus. Allora, il tema è molto serio, è molto importante. Oggi sui giornali italiani si legge: è tutto pronto per l'evacuazione degli italiani che stanno a Wuhan. Allora, noi abbiamo la fortuna, grazie alla nostra redazione, Lorenzo Nespoli, abbiamo contattato e siamo in grado di collegarci con Wuhan, dove c'è un cittadino italiano, lo chiamiamo Lorenzo, solo con il nome di battesimo. Lorenzo, buongiorno, anzi buonasera per lei. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui da Wuhan. Intanto, allora, notizie sulla cosiddetta evacuazione, rimpatrio, cosa ne sa lei che sta lì, è uno dei circa 50-60 italiani lì? Beh, mi fa piacere che ne parliate molto, perché vuol dire che ci pensate. Noi quello che sappiamo è solo che ieri l'ambasciata ci ha chiamati tutti, come sta facendo quasi tutti i giorni, sono molto attenti e molto presenti con le nostre esigenze. sono molto diversi anche se siamo in pochi, e ci ha detto semplicemente fate pronti ad ogni proposta, ad ogni evenienza, ci hanno chiesto un po' i dati relativi ai documenti e quindi stiamo aspettando. Quindi in realtà, perché i giornali dicono da oggi parte l'operazione, no, cioè non state partendo, ecco, per entrare in Italia. Non stiamo facendo le valigie, ecco, se vuole che le dica proprio chiaramente. Sì, sì. Non state facendo le valigie. Sì, è vero che dovreste venire in Italia, poi ci spiega anche come uscendo da Wuhan, come, e poi stare nel caso in quarantena ovviamente in Italia, per precauzione. Certo. Ma quello che ci hanno detto ieri, proprio le ripeto, siccome sono notizie molto delicate, non voglio dire troppe cose, anche perché coinvolgono altre persone, altre famiglie, quindi le può capire. Quello che ci hanno detto ieri è semplicemente che, essendo dopo essere tramontata l'ipotesi iniziale che era sulla falsariga dei francesi, oggi pure i francesi escono con un volo, sembra, come ieri sono usciti alcuni giapponesi, alcuni americani, anche gli inglesi, sembra, questa notte, quindi noi non sappiamo tutti questi dettagli, però i suoi colleghi giornalisti ce li comunicano, e quindi anche noi, anche l'Italia, si sta muovendo, sembrava inizialmente in un contesto europeo, adesso invece direttamente, quindi con un volo italiano, sembra, per portarci, quindi, o portare in Italia i connazionali e poi fare la quarantena, che sarà quindi in un ospedale, in una struttura, non sappiamo bene, non sappiamo veramente i dettagli, però ecco, questa è la cosa, e quindi sono tutti molto più rilassati qui con nazionali di Wuhan. Ma sarebbe un volo direttamente da Wuhan in Italia, se senza passare altrove? Lei ha usato appunto il condizionale, perché noi non abbiamo, anche noi abbiamo visto i lanci dell'ANSA, abbiamo letto le notizie anche noi, come lo sapete. È meraviglioso, è meraviglioso, perché voi siete i protagonisti, siete le persone, come dire, e invece dovete informarvi dall'ANSA, cioè l'agenzia di Stato. No, ma non è quello il discorso, perché credo che giustamente l'ambasciata comunque la fase di noi parlando, non stiano creando delle false aspettative. Ci hanno detto, cioè, preparatevi, appena tutto è pronto noi vi chiameremo, quindi noi siamo contenti di questa cosa, stiamo aspettando loro, non c'è nessun problema, semplicemente appunto ci sono queste notizie che sono uscite e che non ci creano alcun problema, ci danno ulteriore motivo di fiducia, insomma. Sì. Posso chiedere, lei da 1 a 10 quanto è preoccupato di tutta la situazione? Allora, posso dirle, guarda, il primo giorno quando ci hanno rinchiusi dentro, poi insomma non è proprio essere rinchiusi, perché è come se venisse chiusa, non so, l'Île de France o Londra, quindi un'area enorme dove si può tranquillamente anche girare, anche in bicicletta, anche in auto, naturalmente nessuno o quasi nessuno lo fa perché non è considerato sicuro. Quindi ci hanno chiusi dentro, la prima cosa naturalmente che tutti hanno pensato è adesso come faccio con le provviste di cibo. Avrò le medicine nel caso in cui mi venga una tosse, un qualcosa, una piccola influenza non dovuta al virus, per cercare di curarmi a casa piuttosto di ricorrere alle strutture ospedaliere locali che erano completamente in crisi. Insomma, sono le domande proprio della vita quotidiana che ci siamo fatti, qualcuno è andato un po' in crisi, come faccio appunto con le provviste, come faccio a cucinare, non so cucinare, cose veramente molto, molto banali. Pian piano, con il passare dei giorni, la situazione è molto migliorata. Intanto è cambiato il tempo, pioveva, era grigio, quindi anche dal punto di vista morale mi sono accorto personalmente quanta importanza ha il sole. Io non mi ero mai accorto, poi noi siamo italiani, amiamo il sole, quindi insomma queste giornate sono molto, molto belle, ci sta bene, anche è caldo, quindi ho aperto le finestre un po' per godermi qualche raggio di sole. E anche i concittadini ieri, l'altro ieri, i giorni precedenti dicevano guarda, si sta un po' meglio oggi, dai, sento di umore un po' migliore, quindi via via che passa il tempo stiamo un po' più rilassati. Il problema però è, il problema c'è, cioè non è che stiamo sottostimando la cosa, noi parliamo a nostro livello personale, il problema c'è, la città è bloccata, sono misure di emergenza drastiche, è tutto chiuso, fondamentalmente sono i servizi essenziali, anche per entrare nei singoli compound adesso si entra soltanto con il controllo della temperatura, anche coloro che portano cibo da fuori con la moto si bloccano alla porta, bisogna andare a prendersi il cibo. Diciamo che come ci spiegava anche ieri Burioni, l'importante è limitare al minimo i contatti, ecco, non è che purtroppo sono le minime precauzioni che vanno fatte. Voi comunque, lei intende tornare, perché ci sono anche delle posizioni di chi dice forse prima o poi finirà e stiamo qui, invece è intenzionato. Ma io su questo non rispondo, perché appunto è una cosa personale di ognuno, quindi insomma è una cosa un po' riservata, saprete poi quando succederà, insomma, Ecco, sì. Penso che sia corretto, insomma, non dire nulla anche per rispetto degli altri amici conoscenti. Sì, sì. No, cioè, nel senso, neanche su di lei vuol dire se torna. No, neanche, anche io preferirei in questo momento non lanciarmi troppo, perché preferisco che siano i miei genitori che sappiano da me, insomma, no? Certo, ma chiaro. Comunque, certo. Ecco, caro Lorenzo, grazie. Se ci consente nei prossimi giorni, se sarà ancora lì, se la situazione, magari un collegamento, perché è talmente prezioso sapere, e poi anche Leonardo scoprire, evidentemente, perché si legge sui giornali, si leggono sui giornali delle notizie che sì, sono vere, ma poi dopo, quando senti i protagonisti, la situazione è un po' di preoccupazione, po' c'è comunque. Sì, chiaro. Si sente che. Volevo chiedere poi all'ospite, ma il volo eventualmente che lo riporterebbe in Italia è gratuito, non è che gli fanno pagare il biglietto? Paga lo Stato italiano, questo chi lo sa. Non... Sì, diciamo detto. È gratuito, paga lo Stato. Quello che sappiamo noi sì, poi paga lo ripeto, Stato. Non abbiamo i dettagli. No, ma è chiaro, è anche una questione di salute pubblica, di salute di tutti quanti, quando si dice tutti quanti vuol dire proprio di tutta l'umanità, quindi è giusto. Secondo me qualcosina la fanno pagare, almeno le spese vive. Beh, non gli daranno da mangiare, insomma, almeno senza bere e mangiare, almeno a bordo. Tanto tu, per esempio, avresti il problema della turbolenza, quindi non preferiresti. È stata bella, interessante anche la tua domanda di prima, quando chiedevi se tornerà direttamente in Italia o fa degli scali intermedi, in che senso? Cioè, si ferma a Bali perché ti sei perso che qualche giorno fa la veterinaria che abbiamo avuto, Sara Platto, che anche lei sta lì a Wuhan, ha detto ci hanno proposto di prendere un autobus, fare 300 chilometri, andare in una città che adesso non ti saprei dire, poi fare lì la quarantena in un ospedale cinese per 14 giorni e da lì tornare in aereo. E lui e su questo ha detto no, io... Corona tour. Vabbè. Oh ragazzi, si può sorridere anche su questo. Sì, praticamente sì. Infatti lei ha detto io sono un medico e veterinaria, appena mi hanno detto di mettermi in un autobus per 300 chilometri con 50 persone ho detto scusate, non mi sembra un cordone sanitario molto... Ti potrei mettere sul fondo dell'autobus a cantare le canzoni con le mascherine. Esatto, e trecce gli occhi azzurri. A proposito di canzoncine, sai che adesso parliamo di Sanremo dopo il traffico, io non ho, devo capire perché la nostra responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, possiamo chiamarla? Adesso chiamala Miriam Lucchetti, chiamala per capire perché è così infogliata su questa cosa. Io non guardo Sanremo, tra poco. Ma è ovvio, sarà per la questione sessismo, sì, no? Immagino. Sì, certo, ho capito, ma sì, vabbè, tra poco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Filippo Reggi, dalla regia tu dovresti vedere il cipiglio, il puntiglio, anzi l'arroganza, la violenza con la quale mi punta il dito contro, il dito indice, caro Leonardo, come dire, no, parla tu, perché non ma Filippo Reggi ha un carattere aggressivo, sì, si vede che è una persona violenta di fondo. Ragazzi, basta vedere il viso che ha, che incute un po' di timore, è aggressivo come persona. Ah, tu sei fisionomico? Sì, assolutamente. Sì, anch'io. Va bene, allora, cari ascoltatori, allora lo sapete, tutta la polemica per la presenza di Junior Kelly a Sanremo, oggi ho visto che c'è un'intervista ad Amadeus su Oggi, Oggi in copertina, il mio amico Umberto Brindani dice in sostanza basta, io rispetto le donne, non posso neanche adesso vivere con l'ossessione di non poter dire a una donna che è bellissima. Claudia Sacilotto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Coordinamento donne della CISL del Friuli Venezia Giulia, sono loro, siete voi che avete lanciato la campagna con l'hashtag, perché ovviamente bisogna usare sempre queste cose di comunicazione, io non guardo Sanremo, tutto attaccato con l'hashtag, cioè il cancelletto, io non guardo, ma lei non lo guarderà proprio? Ma sono molto combattuta a questo punto, perché la curiosità c'è. Spero che mi riferiranno, perché a questo punto qua devo essere coerente, quindi non penso di vederlo. Attenzione, non pensa di vederlo. Dove nasce tutto questo? La polemica più della conferenza stampa di Amadeus, bellissima, la donna che fa un passo indietro, eccetera, oppure la vicenda del rapper, lì, il trapper, come si chiama, Junior Kelly? Ma diciamo che è un misto, cioè sono tutte e due le motivazioni. Però penso che la cosa che ci ha fatto scattare inizialmente lo stupore, poi l'incredulità, poi che si è trasformata in indignazione, proprio le parole che dicevi tu, no? A partire dalla presentazione di Francesca Novello, sì, proprio che quello che secondo me Rosso. È stato uno scivolone, quindi io credo nella buona fede di Amadeus, ci mancherebbe. Sì. Però è stato uno scivolone fatto da un conduttore comunque di un servizio pubblico importantissimo, e quello di dire che ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, veramente l'abbiamo visto come un'offesa. Questo le donne devo dire, ma, sì sì, è la cosa che la più professionalità, sì, sì, delle donne. Perché lì c'erano comunque delle professioniste all'Ariston, andando comunque delle professioniste che condivido che sono belle e bellissime, ma lui, sì, nella conferenza stampa l'ha citata questa parola dalle 12 alle 15 volte. Sì, no, qua ridevamo, Claudia, ecco. Ridevamo con Manera. Manera ha detto era talmente abbascinato dalla bellezza che non ha capito più niente. No, poi è vero, per esempio, che può essere. Però per altri versi, però, è innegabile che, per esempio, la fidanzata di Ronaldo è stata chiamata per la bellezza, perché poi di fatto non ha, credo almeno, non ha delle competenze, diciamo, professionali particolarmente note. No, per andare a Sanremo, no. Allora, noi come donne vorremmo che fosse valorizzata la professionalità delle persone, sì, e quindi conseguentemente anche delle donne, che fanno molta, ma molta fatica ad affermarsi nel mondo del lavoro, studiano, sono, tra virgolette, più professionalizzate, più hanno, sì, dei voti molto più alti nelle lauree, sono il 54% comunque le donne laureate. Ma questa è una tematica, Claudia, svilire la professionalità con la bellezza, che ripeto non ci azzecca, sono belle, niente da dire, non c'è invidia. Però è sminuire veramente. Però Claudia, allora, la tematica della parità di genere in tutti i settori, cioè, sono tutte questioni fondamentali. Però il mondo dello spettacolo è anche un mondo un po' a parte da questo punto di vista. Cioè, nel mondo dello spettacolo l'immagine, non so se è quasi tutto, ma ha la sua grandissima parte, no? È un mondo un po' particolare, un po' diverso. Forse noi donne ci siamo stufate di queste immagini, di questi prototipi e stereotipi che si vogliono far continuare a portare avanti. Ma secondo lei le fatiche delle donne va al di là della bellezza. Certo. Sì, sì. Ma secondo lei la fidanzata di Ronaldo, diciamo, per quale altro motivo avrebbe potuto essere chiamata dal punto di vista della professionalità? Magari fa dei gol incredibili. Cioè, non sappiamo. Ma non lo so, ma non aspetta a me. Resta il fatto che chi ha fatto queste scelte, quindi il direttore, sì, artista, che in questo caso è Amadeus, ha fatto queste scelte. No, però io dico, la domanda, effettivamente, la domanda di Manera, secondo me, è molto intelligente, cioè perché se l'avesse invitata, cioè se non avesse detto quelle cose in conferenza stampa, non sarebbe successo tutto il putiferio. Ma voglio dire, cioè, se avesse, se si fosse pronunciato correttamente, senza degli scivoloni linguistici, senza, perché anch'io non credo che pensi qualcosa contro le donne, Amadeus, assolutamente. Se non l'avesse detto, sarebbe arrivato sul palco di Sanremo, per esempio, la fidanzata di Ronaldo. E magari non ci sarebbero state queste polemiche, ma quale altro motivo c'è per portare la fidanzata di Ronaldo? Perché è una bellissima donna. Cosa ha fatto in Italia per meritare il palco di Sanremo? Però allora vedi, ragioni come ragioniamo noi, che viene sminuita la professionalità delle persone. Amadeus è lì perché è bello o è lì perché è bravo? L'ha ritenuto bravo e quindi gli ha affidato. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma no, non c'è dubbio, ma io chiedo, ci sarebbe stata la stessa polemica senza le frasi di Amadeus? Cioè ci sarebbe stato il io non guardo Sanremo perché avete portato una solo in quanto bella? Chiedo, questo non lo so, questo sinceramente non lo so. Diciamo che ci sono state più componenti, anche il fatto di 10 donne, perché 10 donne un uomo? Perché non una conduttrice donna, potrei dirti, allora? Non ne abbiamo nessuna brava all'altezza di poter... Ci sono state, ma sono 10 anni che non c'è una donna a condurre Sanremo. Quindi mi pare un po'... c'è Antonella Clerici, adesso non so che ruolo avrà, sì, ma Antonella Clerici... No, Antonella Clerici ha condotto un Sanremo. E ci sarà anche quest'anno, peraltro. Sì, però è co-conduttrice, non è conduttrice. Adesso lo vedremo come sarà, in che ruolo. Allora, in 70 anni solo 5 conduttrici donne. Mi volete, ci vogliono far credere che non ci sono delle professioniste capaci all'altezza di poter condurre una trasmissione in Mondovisione? Su questo senza dubbio. Al di là della bellezza. Posso anche condividere che sia un trasmittente importante, un ricordatore importante per una trasmissione. Però diciamo che sono state più componenti che ci hanno fatto scatenare questa indignazione. Sì. Dal numero 10, che non ci sia una donna... Sì, sì, sì. A condurre al fatto delle frasi, Leo, non abbiamo la questione di Junior Kelly è passata in secondo piano fino a questo momento. Stavo per dirti la questione di Junior Kelly, che comunque nella sua storia delle canzoni e dei video che sono osceni. In un contesto per noi su questo io osceni che veicolano, trasportano proprio il concetto di violenza sulla donna. E dovrebbe essere esatto il contrario. Che secondo me è vero che la bellezza non deve essere quantomeno l'unico modo per selezionare, no, chi partecipa alle varie trasmissioni, soprattutto se donne. Io penso anche che però, anche da parte, e questa è una colpa sicuramente dei maschi, ma anche da parte delle donne bisognerebbe magari puntare un po' meno su quell'aspetto. Io per esempio vedo conduttrici con le luci sparate in faccia, truccate come un faraone egiziano, appunto per non far vedere una ruga. Allora dico, se la bellezza non è l'unica cosa, allora cerchiamo anche di renderci esteticamente più naturali, senza pensare che avere una ruga sia la fine del mondo, perché l'immagine che ci viene data spesso anche dalle donne è questa. Cioè, dove la bellezza è l'unica cosa che... Certo, io anche non penso per gli uomini. Che sia penso che la ricerca del mercato in questo momento sia questa, no? Di vedere la perfezione, ma in primis si vuole vedere la perfezione della donna. La donna è un essere umano come l'uomo e quindi ne è. Certo, ma io dico che deve essere una cosa reciproca da parte di chi decide, bisogna non considerare solo quello. E penso che anche da parte delle donne sia necessario fare un passo un po' più in avanti, dire guarda, io sono importante come persona e se anche mi si vede una ruga, chi se ne frega, io la vedo così. Ecco. Secondo me il malcontento che state espresso aderendo a questa nostra iniziativa, no? Perché ad oggi abbiamo raccolto 500.000 interazioni, una cosa impensabile, esprima proprio il malcontento della società civile di questo modo di fare anche spettacolo. Noi comunque, io ci tengo a sottolineare che non ce l'abbiamo con Amadeus, lui secondo me ha fatto uno scivolone non rendendosi conto di quello che... Volete portare alla luce questa tematica, ecco, con questa iniziativa anche un po' forte. Esatto. Ecco. Io non guardo Sanremo, ma poi dai, in segreto qualcosa guarderà. Poi ognuno farà quello che ritiene opportuno. Beh, una sbirciatina col telecomando. Esporremo uno striscione fuori dalla sede della CISL regionale, sotto quello di Giulio Regeni, di Verità per Giulio Regeni, Lo striscione cosa sarà? Io non guardo Sanremo? Però Sanremo. Altresì usciremo con un comunicato stampa, vi do l'anteprima, in cui diamo un'opzione ad Amadeus, no? Perché noi come CISL siamo comunque abituati a passare dalla protesta alla proposta. E cioè? E quindi proposta? Vorremmo con lui invitare proprio Amadeus a farsi promotore di azioni da fare insieme a noi per contrastare la violenza non solo verso le donne ma verso tutte le persone. Vabbè, questa è un'iniziativa. E quindi questo è proprio il segnale. Vedremo che se Amadeus, vedremo se Amadeus accetterà. Va bene, dai, ringraziamo Claudia Sacilotto, grazie. Coordinamento donne della CISL del Friuli Venezia Giulia. Tu lo guarderai Sanremo, Leo? Io sì. Ma io faccio un compromesso. Cioè? Io lo guardo ma senza audio. Ah, in mute. Bene. Potrebbe essere. Sento le canzoni o meglio quando cantano mut o quando parla sempre in mut, così non sento Amadeus per protesta, non sento le canzoni, però per l'auditel tu sei lì, per l'auditel sì, tu sei lì, sì, sarai faccio questo compromesso. Uno del 51% degli italiani, di queste percentuali bulgare. Ecco, poi non sopporto quelli Sanremo, non l'ho mai guardato, quelli che vabbè è una scelta legittima. Io invece Sanremo l'ho sempre guardato perché mi incuriosisce, è bello, è così, fa colore, un po' come dice Manera, è come tenere l'aspirapolvere, la lavastoviglie accesa, cioè c'è Sanremo, dai. Il sabato sera in genere la finale mi vedo con gli amici, guardiamo Sanremo, che poi è una scusa per bere e mangiare come dei... No? Ecco, io invece non ho praticamente mai visto la finale, perché la finale è di sabato, io spesso il sabato lavoro, sì, e quindi non mi è mai capitato di vedere la a me anche finale. A me è il contrario, io prendo magari degli impegni e poi scopro che sono nella settimana di Sanremo, mi girano le balle, perché dico ma accidenti, ma vabbè. Comunque c'è qua Mauro Meazza che sta speculando sui fiori, che sta organizzando delle scommesse su Sanremo, anche ha investito molto nei fiori in quest'ultima settimana e poi li rivende a Sanremo. Ecco, trova sempre un modo per guadagnare. Sì, Mauro Meazza, incredibile. Guarda, succede quasi incredibile. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, io non guardo Sanremo perché senza ipocrisia delle canzoni ce ne frega poco, però vedere persone dello spettacolo che vedo tutta la settimana non è proprio il massimo. Come direbbe Cetto la qualunque, che du coglioni! Non si capisce questo ascoltatore con chi ce l'avesse nelle vita. Sì, ma no, forse contro o Sanremo. La polemica su Sanremo. O la polemica su Sanremo, o forse Sanremo. Ma io, signora, però. Forse noi. Non ascolto le canzoni, ma invece no. Invece secondo me, se c'è una cosa bella ancora di Sanremo, è che uno scopre anche un po' le canzoni ogni anno, no? Tu, Leonardo, poi a capire, alcune sono un po' orecchiabili, alcune sono banalotte. Io ascolto solo Michele Zarrillo. Perché Michele Zarrillo? Perché mi piace il nome. Ah, così. Cioè, quando dicono canta Michele Zarrillo e poi dopo rispegni. Sì, sì. Quando esce? Sì, sì. C'è anche sta musichetta, dai. No? Di Milan Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Canta Michele Zarrillo. Come direbbe Cetto la qualunque, che du coglioni. E torna quest'anno Michele Zarrillo, se non sbaglio, a Sanremo. Ma non lo so, forse Michele Zarrillo non va mai via da Sanremo. Sta tutto l'anno a Sanremo e quando c'è il festival aprono, ti dico, eccoti qua ancora. E quindi, una rosa blu di Michele Zarrillo. Sì, le canzoni sono tutte uguali da 30 anni. No. L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo. Sì, poi c'è tutta la discografia. Quanti concerti hai visto di Michele Zarrillo? Tutti, vado sempre. Sono gli unici concerti cui vado, qua di Michele Zarrillo. Vabbè. Solo che quando lui fa una rosa blu e l'elefante e la farfalla, poi... basta. Finiscono lì. Due. Ma non è vero, scusa, se ha fatto tutti gli anni Sanremo. Non è vero. Sai cosa mi capitò una volta in uno spettacolo? C'era un cantante di cui non faccio il nome. Ero andato a fare lo spettacolo e insieme a me c'era anche questo cantante degli anni 60, diciamo, che è noto per una canzone soprattutto, ma io pensavo che poi nella vita avesse fatto anche altre canzoni. Invece lui ha fatto 7 canzoni, ma ha fatto per 7 volte la stessa canzone, cioè quella famosa, con arrangiamenti diversi. No, dai, adesso voglio sapere chi è. No, non lo posso dire. Ma come non puoi dirlo? Ma no, pare brutto. Ma mica. No, è brutto nel senso. Ma no. Mica lo stai offendendo. Sì, lo offendo, perché poi magari la gente, se deve andare a vedere un suo concerto, dice: sento delle canzoni diverse. Dopo scoprirà questa cosa. Che ha visto, insomma, la stessa canzone riarrangiata per 7 volte in modi diversi. Ma dai, ma chi è sto cantante? È un cantante noto degli anni 60. Vabbè. Allora, ecco, attenzione, c'è un'informazione fondamentale. Vai o no a Vignola sabato? Vogliono sapere. Vado a Vignola perché sto perché meglio, sto fuori. Ma sì, ma dai, ma c'è sto abbastanza farsa, bene, non so. Vado a Vignola. Non sono andato la settimana scorsa invece qui al Teatro Oscar. Ma in questi casi ti senti un po' in colpa? No. Perché devo sentirmi in colpa? Non potevo andare, ero impossibilitato. Vabbè, ho certificato. La gente ha pagato il biglietto per te. Sì, ma hanno avvisato, mi ha sostituito un altro comico, Marco Lanoce. Ma non è la stessa cosa. E io vado il 22 febbraio, recupero la data il 22 febbraio. Vabbè, ma uno aveva programmato di venire a vederti quel giorno di gennaio, magari il 22 febbraio. Capito, cosa devo fare se ho la febbre sentirti alta? Sentirti un po' in colpa. Tre... Ecco, quello che ti ho detto, sentirti un po' in colpa. No, la colpa mai. No, ho altri motivi per cui sentirmi in colpa più... Più importanti, vabbè. Il pubblico vi schifa. No. Cioè, potremmo mettere il mitico Moretti di un tempo. Ma no, me lo recuperi, Filippo. Io... Chiedi a Lorenzo, sa di cosa sto parlando. Intanto sentiamo Alberto dalla provincia di Venezia. Vai, Alberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie dello spazio che mi date, perché è un'informazione importante che ho nel cuore da tanto tempo. Un senso di ingiustizia che mi pervade. Ho sentito la sindacalista prima che parlava di donne, di diritti di donne. Sì. Non penso che sia il problema Sanremo, sì sarà anche, però ci sono cose molto più importanti che stanno succedendo sulla pelle delle donne. Ci sono 70.000 precarie in Italia che vengono tra poco verranno buttate fuori dal mondo della scuola dopo che per tanti anni hanno servito lo Stato. Le precarie della scuola, quelle che sono 70.000 persone che in questi anni hanno permesso ai nostri figli di frequentare la scuola. E adesso la Azzolina, praticamente con un salva precari che non ha niente di salva precari, le metterà fuori dal mondo del lavoro con un test a crocette al PC. Ma lei perché è così interessato? Posso chiedere perché è così interessato a una famiglia? Perché conosco, esatto, perché mia moglie lavora al mondo della scuola da 10 anni e c'è un'associazione di precari che si sta muovendo perché i sindacati stanno facendo poco, a nostro dire, perché dialogano molto ma non fanno niente, anche perché le dico poi grazie del tempo, i sindacati. Adesso, se lei va a vedere, ci sono dei corsi che stanno buttando fuori per superare il concorso. No, allora, comunque, queste sono le cose importanti. No, va bene, Alberto. Allora, lei giustamente dice una cosa importante. La premessa non è che se la CISL si occupa di Sanremo non si occupa anche di altre cose. Sono sicuramente non conosco a fondo la questione, magari mi riprometto di approfondire. Però, se no è il benaltrismo, no? Ma perché ci occupiamo di Sanremo? Ci sono ben altri problemi. Va bene, sì, adesso c'è Sanremo e quindi c'è questa iniziativa contro Sanremo. Comunque, Alberto, grazie per la segnalazione. Manera, quando verrai a Correggio, provincia di Reggio Emilia? Organizzate una serata che vengo volentieri. Il problema è che lui, Leonardo Manera, ha questo atteggiamento, il famoso atteggiamento morettiano nei confronti del pubblico. Si sa. Pubblico di merda. Che morettiano. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Lui dentro di sé è... vi schifa, ecco. No, però dici tu. Sto scherzando, sto scherzando assolutamente. Vive, vive per questi momenti di coesione vive sociale. Un po' eccessivo, no, vabbè, neanche, ragazzi, neanche però, anche vabbè. Così eccessivo. Vabbè, allora, è il mio lavoro. Va bene. È il mio lavoro. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma chi se ne frega di Sanremo? L'importante è che tra 3 mesi e mezzo c'è la dunata degli alpini a Rimini. Ce l'avevo con la polemica di Sanremo, non con voi. Voi simpaticissimi. Ecco. Ecco, qualunque mente ce l'aveva con la polemica. Allora è arrivato, visto che c'è sempre questa tensione pre-Sanremo, è arrivato a qualcuno a insegnarci come ci si comporta. Il professor Jansen torna con noi. Buongiorno professore. Mi dispiace sentire queste polemiche . E questo stato d'animo, che vedo che c'è tanta tensione in giro, persone arrabbiate anche su cose che non hanno bisogno di questa rabbia, in fondo, perché si tratta di un intrattenimento Sanremo, no? Uh-huh. Esatto. È inutile portare questo rancore e rabbia. Ci sono altri elementi più importanti nella vita che hanno bisogno invece di approfondimento, per esempio il lavoro. Tu sai, Alessandro, che il lavoro è importante, no, nella vita della persona, è uno degli elementi fondativi, no, della mm-hmm. vita. Purché il lavoro non diventi una gabbia, un dovere, una fatica insostenibile, insomma, bisogna lavorare, ma in che modo, Alessandro? Come? In che modo? Bene. Il meno possibile, in modo che resti tempo per altre cose. Beh, guardi, questa lavoro, è una teoria, forse ha ragione. È un modo, il lavoro, per portare a casa il denaro, per potersi divertire. Quindi diciamo che il lavoro è un mezzo per guadagnare e dedicarsi ai veri piaceri della vita. Mm. Per esempio giocare al casinò, andare a scommettere nei combattimenti dei cani, bere alcolici, vini di qualità, fumare dei bei sigari cubani. Ecco, guadagnare bene, Alessandro, serve ad avere qualche soldo in più, anche per cosa? Per prestare, per esempio, dei soldi a usura. Ma come usura? Ma puoi incrementare il tuo capitale. No. Quello che voglio dire, cari ascoltatori, che se dedichi eccessivamente la tua vita al lavoro, poi non ti resta niente, nessuna soddisfazione. Torni a casa, ti senti vuoto. E qual è il dispiacere principale? Qual è? Nella vita? Di non avere coltivato dei vizi. Ma che vizi? Che sono quelli che danno il vero piacere della vita. Mm. Perché, amici, una vita senza vizio è come un matrimonio senza amante. È una cosa riuscita a metà. Senti che ti manca qualcosa, che non sei completo. Se non hai dei vizi nella vita e se non hai un amante nel matrimonio. Ma e allora il consiglio è di utilizzare il lavoro, non di farsi utilizzare dal lavoro. E allora come si utilizza il lavoro? Cercando di renderlo divertente, meno pesante. Tu li vedi quelli che pensano solo al lavoro, che si amarano di lavoro, riescono solo a parlare del lavoro in tutte le occasioni della vita. Questa cosa non fa stare bene. Bisogna allora distaccarsi dal lavoro. In che modo? Per esempio, tu hai una riunione di lavoro, per esempio in redazione, Alessandro, con i tuoi colleghi. Sì. Ecco, per renderla meno pesante, fai qualche apprezzamento a una tua collega. Sta facendo, dicendo le idee, tu interrompi e tu sei bella e hai anche la capacità di stare un passo indietro rispetto al capo. Uh-huh. Così magari, oltre a fare un complimento, l'anno dopo puoi anche presentare il Festival di Sanremo. Oppure, se un tuo collega maschio sta facendo dicendo una cosa, se dice una cosa bella, tu alzati, vai da lui e dici bravo. E poi cosa fai? Cosa fai? Gli dai uno schiaffo sul coppino. Ma come? Ancora imparato? Effettivamente stavo per dirlo, però insomma. Per esempio, il tuo collega Simone Spezia, che adesso fa la rassegna stampa, che facevi tu prima la rassegna stampa. Sì, certo, grande Simone. Allora, quando lui parla, dice, stai facendo bravo la rassegna stampa che facevo io, ti apprezzo perché hai una bella voce, varietà di argomenti, ti apprezzo molto, e poi, schiavo sul copino. Vabbè, ma magari così con affetto posso farlo, e lui a me, peraltro, grande amico. Sì, ma tu ripetilo 3-4 volte, din, din, din, din. E lì comincia a diventare un po' offensivo. Lo fai tutte le mattine. Din, arrivo, tac, lo schiaffo sul copino. No, no, no. Ma potrei farlo a Leonardo Manera quando lo vedo. Ma naturalmente so sì. Che lui Manera è già oggetto di molte vessazioni e di molte ironie fuori luogo, ecco. Oppure ingegnati anche a fare qualche scherzo ai colleghi, no? Se c'è un collega come Simone Spezia che viene, lo vedo anche qualche volta, è sempre elegante, sì, no? Con la giacca, cravatta, qualche volta la cravatta, sì. Tu cosa fai? Ti porti da casa? Che cosa? Che cosa porto da casa? Professor Janssen. Allora, devi avere uno spruzzino, come una peretta si chiama. La peretta. Sì, hai presente che se compra in farmacia la peretta. Sì. Cosa... E che cosa dovrei spruzzare con questa peretta? La sera vai al supermercato, la sera prima? Sì. Vai al supermercato e ti compri il sugo del nero di seppia. Il nero di seppia, sì. Riempi la peretta con il nero di seppia. Sì. E appena arriva il Simone, ciao Simone, din din, prima schiavo sul copino e poi con la peretta, psss, tira tu. Così, tutto sulla cravatta, soprattutto, che per Simone Spezia è l'affronto numero uno. Vabbè. E c'è una collega tutta tirata che arriva con i tacchi alti, ce n'è tante lì a Radio 24 che arriva con i tacchi tutti alti, no? Tu un giorno dici, ma come sei bella oggi, collega. È bella, bella, ginocchio. Adesso non so se... Sei professionale, sei molto professionale. Poi? Però tu vedi che hai i tacchi alti, no? Ti inginocchi davanti a lei in segno di ammirazione e mentre sei in giro... Chissà cosa farò inginocchiato davanti alla collega con i tacchi. Non so se voglio saperlo, però... Le togli una scarpa al volo e le stacchi un tacco, tan, poi te fai 4 risate. E la lascio lì con un tacco. Come sono queste 4 risate? Vabbè, sono scherzi simpatici che te va a stare bene. L'importante qual è la cosa importante? Star bene, sì, ho capito. No, certo, stare bene, ma è importante quando arriva il direttore Tamburini, ti dimostri sempre come l'impiegato modello, che gli lecchi il culo a Tamburini. Sì, certo, ovvio, il direttore. Dici che sono gli altri che hanno problemi e se qualcuno reagisce... contro il direttore vai da lui e gli dai un altro schiaffo sul copino a quello che reagisce contro il direttore. Insomma, sul lavoro l'importante è farsi furbi, che poi nel lavoro come nella vita è l'unico modo per stare bene. Bene, ecco. Bene, bene. Penso di aver dato dei consigli utili anche oggi. Direi utilissimi, insomma, non so quanti di questi ne metterò in pratica, forse zero, anche meno di zero, però insomma, quella del sugo di seppia... Non è di seppia, riempi la peretta e lo spruzzi a sorpresa. Vabbè. Allora, salutiamo Rudy da Verona, dice, ma un salutino oggi dalla magica Elisabetta Fusconi, non l'abbiamo mandata a lavorare, insomma, è qua a lavorare, poiché lavoro non si riesce bene a capire, però oggi niente. Salutiamo il professor Janssen, salutiamo... Saluti a voi. Ringraziamo anche Leonardo Manera. 5 giorni che ti ho perso, Zarrillo. È 100 volte più amaro di Manera. Questo dicono di Michele Zarrillo. Va bene, dai, chissà cosa porterà quest'anno, se è a Sanremo. Intanto, Leo, ti aspettiamo, non lo so. Noi siamo lunedì, sempre qui. Lunedì arrivo. Lunedì. Salvo imprevisti, vengo lunedì. Va bene. Ciao, a domani. A domani. Nessuno, 100.000.